Sanpei, Sanpei, pescatore, grandi orecchie a sfantola, sorriso di sole, Sanpei. Che sarà? Pesce, cane, spada, che sarà? È questione di momenti, abboccherà. Amica tua, una canna fatta di magia, e quell'amore una calamita, impossibile cambiare strada. Osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Giuro sulla vita dei miei 5 figli che io non ero a conoscenza dei fatti che invece si vorrebbe fossero stati da me decisi. Quando l'Economist guarda l'Italia e figura un'Italia sostenuta dalle stampelle, dice qualcosa che è profondamente contrario alla situazione che noi italiani viviamo. È una situazione di benessere e di gioia per essere nati e per vivere nel paese più bello e anche tra i più ricchi del mondo. Dateci fiducia, fateci provare. Non ve ne pentirete, non vi deluderete. Non sono un dittatore, non racconto barzellette. Forza, Italia. Sono da sempre amico ed estimatore dell'onorevole Craxi. Sono convinto che Marcello De Lucchi è totalmente estraneo ai fatti che gli vengono addebitati. Da oggi Bettino Craxi è ricercato. De Lucchi è processato per associazione mafiosa con il concorso esterno a Palermo, con l'accusa di aver portato i soldi della mafia a Berlusconi per investirli nel gruppo Fininvest. Non appartiene, non apparterà mai alla nostra cultura l'idea di utilizzare il servizio pubblico radiotelevisivo come lo si usa nei totalitarismi. Non ci sarà un Luttazzi, un Biagi, un Santoro nei totalitarismi. Neppure Mussolini. Onorevole Berlusconi. Neppure Mussolini aveva un monopolio televisivo della dimensione di quella di Berlusconi. Onorevole Berlusconi ha dimenticato un'emergenza. È l'emergenza dell'uso politico strumentale della televisione, di cui lei è protagonista oggi, non per la prima volta. Stavo scherzando. Ma il conflitto di interessi si intende quando uno è lì e fa l'interesse suo contro l'interesse di tutti. Se c'è qualcuno che fa un grosso sacrificio a ripresentarsi come candidato, sono io. Noi vogliamo... I still have a dream. Meno tasse per tutti, anche per te. E tu lo sai. Oh, yeah. Il governo... è del popolo. Mi rivolgo a chi è ancora indeciso. Il governo è del popolo. Dateci fiducia, fateci provare. Non ve ne pentirete, non vi deluderete. Non sono un dittatore, non racconto barzellette. e voglio garantire a tutti coloro che qui rappresentano l'Islam che mai nella attività e nelle intenzioni del mio governo ha mai avuto alcun risultato quella campagna che anche noi abbiamo notato di criminalizzazione dell'Islam e della sua gente. L'amore stesso per la libertà che rappresenta il bene più grande che noi abbiamo, la libertà dei singoli, la libertà dei popoli, che certamente non è patrimonio di altre civiltà come la civiltà islamica. Non è patrimonio di altre civiltà come la civiltà islamica. Pensate se i nostri nonni avessero raccontato che noi ci lasciamo togliere i canti natalizi da una banda di tornuti islamici di merda! Non sono mai stato convinto che la guerra fosse il sistema migliore per arrivare a rendere democratico un paese e far uscire da una dittatura anche sanguinosa. L'idea che ho in mente per il nostro futuro è giù le tasse sui valori. Intesi questi valori come i valori dell'etica, della morale, del bene, della lotta degli angeli contro i demoni, demoni, demoni, demoni, demoni, demoni. Fateci fiducia, fateci fiducia. Non ve ne pentirete, non vi deluderete. Non sono un dittatore, non racconto qualche legge. Demoni, demoni, fateci fiducia, fateci fiducia. Non ve ne pentirete, non vi deluderete. Non sono un dittatore, non racconto qualche legge. Demoni, demoni, fateci fiducia, fateci fiducia. Non ve ne pentirete, non vi deluderete. Non sono un dittatore, non racconto qualche legge. Demoni, demoni, fateci fiducia, fateci fiducia. Non ve ne pentirete, non vi deluderete. Non sono un dittatore, non racconto qualche legge. Demoni, demoni. Che diceva Prodi. Però lei è un dipendente del servizio pubblico. D'accordo. Si contenga. Aia, senza spingere. Ma Crivio, ma cosa fate? Tenga. Dio santo. Sei denti me la dato. So che in Italia c'è un produttore che sta montando un film sui campi di concentramento nazisti. La suggerirò per il ruolo di Capò. Paese da nulla, però c'è sempre sopra una stella, una grande magnifica stella che ha un dipresso, occhieggia con la punta del cipresso di Riobò. Una stella innamorata, chissà se nemmeno ce l'ha una grande città. Perché come voi ben sapete, nei giornalisti l'85%, ho visto i nomi della RAI, sono iscritti a sindacati di sinistra. Oggi la sinistra annuncia arrogantemente di volere andare innanzi a cambiare anche la regola fondamentale della democrazia, che è la legge elettorale. Noi lo diciamo in maniera molto chiara, molto decisa e molto precisa. Non glielo lasceremo fare. Non glielo lasceremo fare. E da oggi diciamo chiaro che ci rivolgeremo al Capo dello Stato, perché se la sinistra procederà in Parlamento e con i propri numeri, che sono i numeri di una maggioranza parlamentare, di un Parlamento che non è più lo specchio del Paese, che non corrisponde più alla situazione del Paese, e questa maggioranza in governo non è quella votata dagli italiani nel 96, perché è una maggioranza fatta con eletti nelle file del centrodestra che hanno tradito il mandato degli elettori, che hanno tradito la prima norma morale della politica, che è quella del rispetto, del voto, della volontà degli elettori. Se questa sinistra credesse di poter fare altrettanto e credesse con i propri numeri di far passare in Parlamento una legge elettorale con i solo suoi numeri calpestando gli interessi della minoranza, dell'opposizione, io sono certo che questo capo dello Stato quella legge non la firmerà mai. Fa un grosso sacrificio a ripresentarsi come candidato, sono io. È un enorme sacrificio per me. È un enorme sacrificio, perché tutto in me, dal punto di vista mio personale e privato, mi spingerebbe a dire si è come di un altro. È un enorme, enorme, enorme sacrificio. Ora io affermo senza tema di poter essere smentito che in Italia c'è uno Stato palese, che è quello del governo e della sua maggioranza, e c'è uno Stato parallelo che è fatto da tutti i poteri forti organizzati che sono nelle mani della sinistra, e sono le scuole superiori, le università, i giornali, le radio, le televisioni, la magistratura, E mia mamma mi ha detto, beh, e allora voleva dire che eri il numero uno, l'unico. A bit late to Camp David. E aggiungo una cosa ancora. I would like to add one more thing. Sure. I consider that the flag of United States not only a flag of a country, but is a universal message of freedom and democracy. Thank you, sir. The English is very good. Ho troppa stima dell'intelligenza degli italiani per pensare che ci siano due candidati che possono votare facendo il proprio disinteresse. Bene, lei si guardi tutto quello che viene fuori dalla televisione, le affermazioni dei vostri Borsetti o Giulietti della sua trasmissione della settimana scorsa. La prego di rispettare chi... Io non li conosco, non li conosco. No, chi dice io non rispetto chi è un professionista di mistificazione. Non rispetto chi dice falsi... Prendete nota della generalità perché voglio denunciare questo signore. Prendete nota, chiedo, c'è un ufficiale di polizia, chiedo che intervenga a prendere le generalità perché voglio denunciare questo signore. No, per favore, l'ufficiale di polizia prende le generalità di questo signore. Non mi pare che sia tanto bene. Non mi pare che sia tanto bene. Non mi pare che sia tanto bene. C'è questo poliziotto di quartiere che trova un pinguino e che lo porta in questura. Nella questura il maresciallo gli dice: ma scusa, qui lo devi portare, ma portalo allo zoo con tutto quello che abbiamo da fare noi, organizzare le gazzelle, metterci d'accordo con i carabinieri e tutto quello che incombe nella nostra giornata, tu ce lo porti qui, portalo allo zoo. Si perde traccia del poliziotto di quartiere durante la giornata, finché il questore, passando nel centro della cittadina la sera, lo vede quasi abbracciato al pinguino, lo ferma e gli dice: ma cosa fai? E dice: non dovevi portarlo allo zoo? Dice: allo zoo sì, gliel'ho già fatto visitare questa mattina, adesso pensavo di portarlo un po' al cinema. Non mi pare che stia andando bene. Il 9 e il 10. Il 52-79. Un enorme mattone al tentativo di con le deviazioni. Do un saluto a Andreotti, a quello schifoso di Berlusconi. Berlusconi è, lo dichiaro una volta per tutte per il 90, un maiale. E noi in questa sede gli dedichiamo questo inno. Ma buon anno Berlusconi, spero che non stia male, però sei un maiale. Però... Questa è la canzone con cui mi sono mantenuto alla Università della Sorbona, perché di giorno studiavo e di notte cantavo a Parigi. C'est du poisson, c'est du sage, comme une sensationnelle. Et

commozione che rimise d'accordo tutti, i belli con i brutti, con qualche danno per i brutti, che si videro consegnare un pezzo di specchio così da potersi guardare. Come profondo il mare, frattanto i pesci dai quali discendiamo tutti assistettero curiosi al dramma collettivo di questo mondo che allora indubbiamente doveva sembrare cattivo e cominciarono a pensare come profondo il mare. È chiaro che il pensiero dà fastidio, anche se chi pensa è muto come un pesce, anzi un pesce, come pesce difficile da bloccare, che lo protegge il mare. Comanda non è disposto a fare distinzioni poetiche, il pensiero come l'oceano non lo puoi bloccare. Ma le tue città così stanno bruciando il mare, così stanno uccidendo il mare, così stanno umiliando il mare, così stanno spiegando il mare.